in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up, qui con voi Patrizia Curreri. Questa mattina un po' nuvolosa, qua a Cefalù, un po' bruttino il tempo e infatti si stanno vedendo all'orizzonte tante nuvole nere che si avvicinano e si prospetta ancora un'altra giornata di piogge, bruttissimo per chi già aveva a mente le bellissime e lunghissime passeggiate a lungomare con il bellissimo sole caldo di Cefalù. Vabbè, dobbiamo aspettare un altro poco. La primavera si fa attendere, ma noi non ci facciamo attendere. Infatti, col nostro sole, appunto, potete vedere il mio logo Happy Wake Up, vogliamo illuminare almeno la vostra mattinata in questo giorno di venerdì 15 marzo 2013. E lo facciamo con la bellissima e fortissima musica di CRM Happy Radio. E questo è David Guetta, She Wolf Fit Sia. Quindi svegliamoci questa mattina con CRM Happy Wake Up. E svegliamoci come sempre con il sorriso. A shot in the dark, a past, lost in space. Where do I start? The past and the chance. Questo è solo l'inizio, siete avvisati voi di CRM Happy Wake Up. E vi ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con noi. Potete inviare un sms al 335-5637-251 o telefonare allo 0921-92-32-92. Oppure potete seguirci su internet, dove potete sentirci ma anche vederci. Andate al sito www.crmpiradio.it e potete richiedere la vostra musica anche da lì. O se no, siamo anche su Facebook. Diventa nostro fans nella nostra pagina, cerca CRM Happy Radio e clicca mi piace, così potete essere potete interagire anche da lì con noi e potete richiedere, potete sentire la nostra bellissima musica. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave.

più giusta, siamo naufraghi vivi in un mare d'amore. E questo era Biagio Antonacci, ti dedico tutto in questa mattina di CRM Happy Wake Up del 15 marzo 2013. Siamo arrivati a metà marzo, eccomi, e sembra volare il tempo per quando uno fa delle cose molto molto veloci, oppure indaffarato nelle proprie faccende lavorative, domestiche, scolastiche e così via. Ecco, a me per adesso è volato, devo dire, ed è volato anche il tempo da quando è stato eletto il nuovo Papa. Sembra appunto da quando ci siamo sentiti, cioè da lunedì, quando l'ultimo programma di CRM Happy Wake Up, ancora un Papa non l'avevamo, ma adesso ce l'abbiamo, ed è appunto Papa Francesco. Quindi anche noi di CRM Happy Wake Up vogliamo quindi augurargli un buon papato, e che sia una vera e propria guida, quella che serve ora in questo periodo un po' di smarrimento non solo di fede ma anche dei valori. E penso quindi, anche vedendo un po' le notizie che per adesso girano tra i vari giornali, che la strada è quella giusta, stai prendendo appunto la strada giusta. Certo, essere papa e quindi magari non volere le guardie intorno è un po' pericoloso, appunto perché sappiamo che ci sono matti in giro, terrorismi e cose varie, però lui intanto non vuole guardie, quindi dice che non gli servono. E quando va a pregare nella Basilica di Santa Maria Maggiore, e dice che non vuole chiudere le porte della chiesa, perché lui è un pellegrino e vuole andare a pregare da pellegrino tra gli altri pellegrini. Quindi non è detto che tra un poco vedremo il papa a girare per le vie di Roma e magari farsi quindi anche indifeso, perché appunto dice che le guardie non gli servono, e magari farsi avvicinare a sé da qualche fedele. È una cosa impensabile ora nel 2013, eppure forse capiterà grazie a questo grandissimo papa, questo umilissimo papa Francesco, che già dal nome dice tutto. Ma intanto noi continuiamo con la bella musica. I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs. We might be on. Yeah. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, our apologies made, was an enemy with no escape. Questo era Alessio con Ears CRM Happy Wake Up. E ricordo i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335-56-37-251 o telefonare allo 0921-92-32-92. Appunto, parlando del nuovo Papa, Papa Francesco, appunto, come sappiamo, viene eletto dopo un conclave, cioè dopo una chiusura, appunto, conclave significa con non chiavi, quindi una chiusura con le chiavi, quindi segregati in una stanza, e i cardinali appunto scelgono nella preghiera, nella meditazione, appunto, come sappiamo, il Papa, quello appunto il successore di Pietro. Ma il conclave, secondo alcuni terapisti psichiatrici, può essere anche un modo, una cosa terapeutica per combattere lo stress. Ormai, secondo me, però la stress è diventata ormai la parola è tipica del nostro millennio, cioè sia del 2013-2012 assieme alla parola appunto crisi economica, e quindi è un modo per combattere, cerchiamo ora tutti i possibili modi per combattere questo stress. Adesso ci arriva in aiuto appunto il conclave, ossia l'isolamento caratteristico dell'elezione di un pontefice può essere replicato da chiunque anche nella vita quotidiana per ottenere il raccoglimento necessario a raggiungere meglio i propri obiettivi e combattere lo stress. In ambito strettamente religioso, l'isolamento è una dimensione in cui ci si imbatte di frequente. Pensiamo a degli ordini religiosi e monastici che cercano la solitudine e la clausura. Ma anche al di fuori della sfera più strettamente spirituale, esperienze di isolamento dal resto del mondo vengono sperimentate, ad esempio, dagli astronauti e che simulano un volo spaziale. E infatti è successo al, a un, è stato seguito un progetto e di alcuni astronauti, il progetto Mars 500, durante la simulazione del volo umano su Marte, in cui l'equipaggio ha trascorso 500 giorni all'interno di un'astronave. Bene, osserva lo specialista, la motivazione a raggiungere un obiettivo oppure la tensione spirituale di un evento o la preghiera possono aiutare a combattere lo stress. Quindi una, quindi bisogna cercare, se si cerca, se si vuole, l'isolamento funziona, funziona per conoscersi più, i, più ognuno può, può conoscere se stesso più internamente, magari riconoscere degli aspetti di se stesso che magari non aveva visualizzato magari nel, nel rapporto con noi, con gli altri. Quindi le relazioni interpersonali servono, ma serve anche un momento di chiusura, chiusura magari con le chiavi, una chiusura corporea, in questo caso un isolamento, e si può combattere un po' lo stress, ecco, un po' chiudere l'interruttore, ecco, della propria testa, della propria volontà, e magari riprendere con più forza e con più vitalità. Ma adesso romanticizziamoci un poco con Elisa e Ligabue, gli ostacoli del cuore. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Ostacoli del cuore, quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. I wish that this night would never be over. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. Never Close Our Eyes a CRM Happy Wake Up. Continuiamo a svegliarci un poco tra una canzone e l'altra, tra un'energia e l'altra, ecco, questa mattina del 15 marzo 2013. Ancora il sole non è spuntato. Bene, ancora ci metteremo ancora un po' di più di impegno per far spuntare questo sole a Cefalù, almeno anche nelle vostre parti, che ci sta ascoltando da altrove, e magari aspettando insieme anche queste bellissime temperature primaverili che ci fanno attendere. Ma intanto vi devo dare alcuni appuntamenti, così iniziamo un po', poi vi dirò durante la mattinata. Intanto oggi pomeriggio alle 16 all'interno di Semplicemente Insieme, il programma condotto da Jerry, e ci sarà l'intervista a Matt Barro, un giovane rapper cefaludese che ci presenterà il suo nuovo progetto musicale. Quindi per chi piace la musica rap, ma chi piace appunto sentire comunque giovani emergenti, ecco, questo giovane appunto presenterà oggi pomeriggio alle ore 16 all'interno appunto del nostro programma Semplicemente Insieme programma di CRM Happy Radio, il suo progetto musicale. Poi stasera, sempre alle 21, oggi è venerdì, quindi l'immancabile appuntamento con Rocco Revolution, con Simone e Filippo Brancato, intervisteranno un bel po' di band, musica dal vivo, sempre assolutamente dal vivo. E poi domenica 17 marzo, dalle ore 9 alle ore 19, al Costa Verde di Cefalù, riservata a tutti coloro che pensano di avere un talento, quindi una selezione di talenti al Costa Verde. È la vostra occasione per realizzare il vostro sogno, nessun costo da sostenere, nessun impegno, niente da perdere, insomma, non vi resta che provare. Pertanto vi aspettiamo tutti all'Hotel Costa Verde domenica 17 marzo dalle 9 alle 19, quindi poi se c'è una bella temperatura potete fare appunto una bella passeggiata nel mentre, oppure dopo, appunto prima o dopo, quindi questa la selezione. E quindi se avete un talento, se pensate di averlo, volete tentare, volete cercare appunto di vedere se siete talentuosi oppure no, ecco, andate domenica 17 marzo dalle ore 9 alle ore 19 al Costa Verde di Cefalù. E quindi questi sono intanto questi piccoli appuntamenti, intanto prendete nota, poi ve li ricorderò durante la mattinata, ma intanto la musica non deve mancare, la musica di CRM Happy Radio, e questo è il grande, grandissimo, l'insostituibile Vasco Rossi, con Vivere o Niente, io vivo. Rivelerò cose che nessuno sa di me, e lo farò solo perché tu non sai com'è. Brividi sento quando guardo, i lividi che han lasciato segni dentro. Io non ho voglia più di fare finta che vada tutto bene solo perché guardami, io sono qui. Vivere o niente, in fondo poi nemmeno sai perché solo ti muovi dentro questo spazio-tempo, e lividi, vedi i tuoi ricordi. Senti che sono già morti, io non ho voglia più di fare finta che we'll CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Di Bruno Mars del Easy Song, una canzone ideale da sentire in macchina, magari appunto canticchiandola un poco, che magari rilassa è un poco appunto la guida in macchina, ecco. Infatti da uno studio ci sono molti italiani che ascoltano la musica in macchina. È un modo appunto per tenersi in compagnia, aiuta a vincere la noia del viaggio e tiene sveglio il guidatore durante gli spostamenti notturni. Insomma, la musica è da sempre una buona compagna di strada e di tante avventure, come dichiara oltre un italiano su due. E il genere più gettonato, pensate, è il pop, scelto da 4 italiani su 10, poi seguito dal rock, ma anche un curioso pari merito tra musica disco e classica, quota 9%, quindi certo da un posto all'altro. Però io conosco qualcuno che si rilassa in macchina a Palermo sentendo musica classica, quindi ci vuole, secondo me ci vuole un po' all'interno dei nervosismi della musica, della guida nervosa a Palermo, ci vuole un po' di musica classica di sottofondo, ecco, molto ideale, ecco. E il sondaggio della musica on the road arriva dal centro studi di documentazione di Direct Line, la grande compagnia appunto di assicurazione online, e dall'indagine emerge che il 62% degli italiani ascolta musica mentre viaggia, il che corrisponde in termini numerici a un esercito di 24 milioni di automobilisti. Investigando sui generi preferiti dei viaggiatori appunto d'Italia, è emerso che la colonna sonora ideale del viaggio, il proprio viaggio, è il pop. E appunto poi c'è quello con la musica classica, che è molto apprezzata soprattutto tra gli over 45, e mentre per la musica disco naturalmente abbiamo una l'età varia dai 18 ai 34 anni. E, ma inoltre c'è un altro dato importante rivelato da questa, da questo sondaggio, che suggerisce che canticchiare un motivetto semplice mentre si è alla guida di un veicolo è un'ottima abitudine che aiuta la concentrazione e diminuisce il rischio di incidenti. Un recente studio appunto condotto invece in Inghilterra rivela che il 63% degli automobilisti che non ha mai causato sinistri è abituato a canticchiare in auto, e quindi fate in modo appunto per evitare incidenti gravi oppure anche lievi di canticchiare mentre si guida. Poi da preferire appunto la musica anche rilassante e facilmente orecchiabile, ascoltandola mettendola a basso il volume della radio, perché un volume eccessivo può rendere la guida più nervosa e favorire comportamenti aggressivi. Quindi giusta la mia intenzione appunto della musica classica abbinata al traffico di Palermo. Ma ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me: potete inviare un sms al 335 56 37 251, telefonare al 0921 92 32 92, e ci dite un po' cosa ne pensate. E ora ci sentiamo una canzone che per me può essere adatta a un piccolo viaggetto in una macchina. Hey now, take your pills, and hey now, make your breakfast, hey now, comb your hair and off to work, crash and land, no illusions, no collision, no intrusion, my imagination runs. I know, I know, I know what I am chasing. I know, I know, I know that this Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a vó. Menina, fica à vontade, entra e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Niente, niente da fare, neanche con Gustavo Lima, balada boa, poi ritorna il sole, almeno con un po' di ritmo latino pensavo che qualche scorcio di sole, di raggio di sole spuntava qua a Cefalù, ma niente, ancora attendiamo ancora un poco, vediamo se entro la fine del programma, che sarà appunto verso le 11, appunto troveremo un po' di sole, raggiungeremo appunto questo nostro obiettivo. Ma poco fa appunto vi parlavo del conclave, appunto della fase della meditazione, non solo religiosa ma anche interiore personale, che serve a modificarsi un poco o cercare un po' di combattere lo stress. Adesso invece un ricercatore francese, pensate, convertitosi come monaco buddista, è stato dichiarato l'uomo più felice del mondo da una ricerca scientifica. Un gruppo di ricercatori guidato dallo neuroscienziato Richard Davidson ha testato le onde cerebrali di questo monaco nell'ambito di uno studio sulla meditazione, riscontrando un livello di onde gamma, quelle collegate alla coscienza, all'attenzione, all'apprendimento e alla memoria, mai registrato prima di allora nella scienza medica durante uno studio sulla meditazione. E questo monaco, che oggi è anche uno stretto collaboratore del Dalai Lama, commenta i risultati dell'esperimento, nel corso del quale gli sono stati posizionati 256 sensori per registrare le onde cerebrali. Con soddisfazione, appunto, dice: è un ambito di ricerca molto interessante, perché mostra che la meditazione non è solo illuminazione sotto un albero di mango, ma cambia completamente il tuo cervello e quindi chi sei, ha commentato appunto l'ex ricercatore. Le scansioni hanno evidenziato come la meditazione modifichi le attività del della corteccia cerebrale, aumentando la capacità di felicità e riducendo la propensione a pensieri negativi. Quindi adesso anche la scienza, quindi non è solo una nostra intuizione il fatto di concentrarci su noi stessi ci possa provocare appunto uno stato di serenità e di tranquillità, ma anche la scienza ci viene in aiuto dicendo che appunto la meditazione, quindi è il richiudersi un po' in se stessi, quindi riservarci qualche momento per noi, e ci porta ad aumentare la capacità appunto di essere felici e ridurre appunto questi pensieri negativi che spesso ci attanagliano e ci provocano appunto tantissimo stress. Quindi che possiamo dire? Viva la meditazione, perché più bella cosa non c'è. Come è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero perciò, lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te. Oh. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. I can pay for everything that's on you. Yeah. So everything is on me. Woo. Got them girls going Cindy Lauper, got Garv and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach. Tell the bar that we don't want no glass, just bottles and a bite, and everybody want each. Yeah, so bring the verb, fleek out. Think about it, hit the big three out. Party like it's carnival with Rio. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. So we can have a good time, yeah. I'm in it busy looking for the next top model, who's wearing something new and something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bitter pill to swallow, so forget about tomorrow. Tonight we're drinking from the bottle. Yo, as long as they ain't getting it wrong, then everything is alright. Got them girls can't hide the cream, the Kardashians, the general types. If you ain't leaving, you're in the wrong scene. If you ain't hiding, you're not on my vibe. Tell the bar that we don't need no sparklers or nothing, just keep the bottles coming all night. Yeah, so bring the verb, free go. Think about it, hit the big three out. Party like it's carnival with Rio. Life's too short, I need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. So we can have a good time, yeah. I'm in it busy looking for the next top model, who's wearing something new and something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bit of pill to swallow, so forget about tomorrow. Tonight we're drinking from the bottle. Drinking from the Questa era Calvin Harris, Drink from the Bottle con Till Tampa e ACRM Happy Wake Up. E oggi appunto venerdì, quindi si festeggia un po' l'inizio di fine settimana e quindi anche ci sta bevendo dalla bottiglia. Vediamola un po' così, dai, un po' di creatività. E vi ricordo appunto l'appuntamento per oggi pomeriggio alle 16 con Matt Barrow, appunto il rapper cefaludese, l'intervista che farà appunto Jerry al programma, durante il programma Semplicemente Insieme. E poi stasera alle 21 appunto Rock Revolution e poi l'eclettica al Carre Lounge all'inizio, quindi alle ore 23, quindi appuntamenti, questi sono un po' questi appuntamenti. Just wanna see you shake that.

cieco lo saprebbe che è rimasto al buio, che dentro è marcio come un frutto nel sole di luglio. E non vi sembra assurdo che se il mondo ci sentisse ammetterebbe che la maggioranza è triste invece di mostrarci senza tatto, che Galileo si sbagliava di fatto perché il pianeta è piatto. È da mo' che il mondo ha perso il gusto, forse Gesù era solo un uomo giusto, forse Gesù era Woodstock. Se il mondo fosse nostra madre potremmo stringerlo più forte, smetterebbe di tremare, vorrebbe bene ad ogni figlio in modo uguale, potrebbe dire alle città di smettere di fumare, fumare. Se il mondo fosse cieco non vedrebbe il sole, ma darebbe più valore a tutte ste parole. Sarei meno attaccato ad ogni cosa materiale, sarei meno distaccato, sai che ti saprei ascoltare. Se il mondo fosse muto parlerei col corpo in un minuto, capiresti se ti sto chiedendo aiuto. Se fosse sordo non saprebbe quanto fa la musica, a volte una canzone salva delle persone. Forse la vita è il bene più caro, se il mondo fosse un regalo, se non contasse quanto denaro, se il mondo fosse un regalo, se Dio camminasse tra gli uomini, se il paradiso fosse qui, se il mondo fosse un regalo, forse la vita è il bene più caro, se il mondo fosse un regalo, se non contasse quanto denaro, se il mondo fosse un regalo, se Dio camminasse tra gli uomini, se il mondo fosse un regalo, se il paradiso fosse qui. E questo è Emiskilla, Club Dogo, J-Ax e Marrakesh, Se il mondo fosse. Bellissima, una bellissima canzone, e tutti i rapper italiani messi insieme che hanno creato una canzone veramente molto significativa. Se appunto state eravate appunto attenti alle parole, la frase appunto che colpisce, anche la musica, una canzone può salvare una persona. Quindi quella è un po' quello che mi fa pensare, anche quello che facciamo anche qui la mattina e pomeriggio con i nostri programmi, appunto di farvi compagnia con allegria, con spensieratezza, un po' per farvi passare un po' i brutti momenti e anche i pensieri negativi. Quindi anche quello vuol dire salvare delle vite, delle persone, ecco, salvarlo un po' dallo stress quotidiano, ecco, riprendendo sempre il concetto appunto della meditazione, che sembra ottima per liberarsi dallo stress. Meditazione che anche con un po' di musica, ecco, non guasta. Ma ecco un rumors che ci arriva dal mondo del web, questa volta gossipiamo un poco. È quella la notizia che Michelle Hunziker è incinta. Appunto, se la scorsa settimana erano pure indiscrezioni con tanto di cinguettio su Twitter firmato Selvaggio Lucarelli, da oggi in poi dovremmo iniziare a parlare di certezza, perché Michelle Hunziker sarebbe incinta di Tommaso Trussardi. Dopo mesi di tentativi che hanno visto la showgirl persino affidarsi a buon Dio per riuscire nell'impresa, i due piccioncini ce l'avrebbero fatta, diverranno genitori. Secondo quanto riporta sia Settimana Leggente che Novella 2000, la conduttrice di Striscia la Notizia sarebbe alle soglie del terzo mese di gravidanza, con un parto previsto per ottobre. Proprio ad ottobre, il 28 per la precisione, è nato Eros Ramazzotti, ex marito con cui 16 anni fa Michelle ebbe Aurora. La stessa Aurora, appunto, è incredibile ma vero, che avrebbe trovato l'angelo azzurro in queste ultime settimane. Quindi già la piccola Ramazzotti cresce, andando così a chiudere il cerchio di una felicità familiare praticamente totale. Quindi noi non possiamo fare che tanti auguri, tante congratulazioni a questa bellissima coppia, e augurare appunto che la famiglia si allarghi ancora di più. E noi continuiamo con la bellissima musica di CRM Happy Radio, e ricordate appunto di interagire con me. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Sì, è come una promessa che fai una ragazza che non puoi dimenticare. Prometti, come un segno firmato dal destino, marchiato a fuoco sulla nostra pelle. E io vivrò di te. Sì, per sempre sarò con te. Per tutta la vita, tutta la vita, per tutta la vita. Quindi ascolta queste mie rime. E se riesci, puoi parlare il tuo cuore. Apriti verso di me, non fermarti mai. Per sfogare il tuo canto. Lo sai, io non ti lascerò mai. Perché per me sei tutto ormai. E sono sicura che non mi tradirai. Sono scritte a caso, hanno un senso logico come un dizionario. Non ha un significato specifico, no, questo non è un testo ridicolo. E mi gira in testa la tua voce, che parla dell'amore che ho per te. E mi gira in testa la tua voce, sono nulla senza te. Le mie emozioni quando mi accompagni, fuori pure tutti i canti. La melodia che hai viene sentita da tutti quanti. Persone felici e senza rimpianti. Oddio come mi piace questa armonia. Distrugge pure tutta la malinconia. Non mi sto fermo, non mi sto zitto, fin quando non mi porta via la fantasia. Lo sai, io non ti lascerò. Quando ti ascolto, tra parole lunghe o corte, ci sei tu sotto che mi incentivi la prossima frase, finendo di decorarla come nelle case. E mi gira in testa la tua voce, na na na na na na na na. E mi gira in testa la tua voce, na na na na na na na na na. Sei la cosa più importante, per il proprio fante. Il carattere dipende tutto dall'artista, se riesce o no dare quella spinta necessaria per andare avanti. Per me i suoni sono come diamanti, sono tante le note che possiedi, fino ad arrivare al punto che mi freni. Lo sai. E questo era un altro grande rapper cefaludese ma di Campo Felice, Joker, che abbiamo conosciuto anche la scorsa estate nel nostro tour CRM Happy Radio on the Beach, che ha presentato appunto la sua canzone Sette Peccati. E questo è un altro suo singolo, L'amore che ho per te, un altro grande giovane emergente che farà tanto successo, lo sta facendo e lo continuerà a fare. Questo è il nostro augurio di CRM Happy Wake Up. Ricordiamo appunto per l'occasione, appunto oggi pomeriggio alle 16 e nel programma appunto Semplicemente Insieme di Jerry ci sarà l'intervista a Matt Barro, un altro rapper, questa volta cefaludese invece, che presenterà appunto il suo progetto musicale. Poi il 17 marzo 2013 dalle ore 9 alle ore 19 a Costa Verde di Cefalù c'è una giornata riservata a tutti coloro che pensano di avere un talento. È la vostra occasione per realizzare il vostro sogno. Nessun costo da sostenere, nessun impegno, niente da perdere, insomma. Non vi resta che provare. Pertanto vi aspettiamo all'Hotel Costa Verde domenica 17 marzo dalle 9 alle 19. E dopo, se avete un po' di fame, potete raggiungere qua al Corso Ruggero a Piazza Garibaldi e la gara del dolce casereccio, dove se anche non avete partecipato con i vostri cose dolci con le vostre prelibatezze, potete comunque degustare un bel po' di dolci fatti dai nostri cefaludesi doc, che anche perché ci saranno tanti premi appunto per i vincitori delle tre torte più buone e dei tre dolci più buoni Caserecci, e quindi anche chi magari è lì di presenza appunto può degustare queste prelibatezze. Ma ancora musica! L'amor me chema, la musica suena, la noce de cristales, bellezza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male a simpala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palao, oh, matelano de samba. Siamo qui in diretta con CRM Happy Wake Up. Stavo perdendo la cognizione del tempo. Vabbè, non ci fa niente, siamo sempre qui, siamo sempre in compagnia della bellissima musica di CRM Happy Radio. Ma il sole ancora non è ritornato, ancora è nuvoloso, infatti guardavo un po' queste le temperature che ci sono in giro. Pensate, a Petralia Sottana c'è Soprana, Sottana c'è la neve, quindi non so cosa pensare, se stia tornando di nuovo l'inverno oppure la primavera ancora ritarda ad arrivare. Noi siamo impazienti, ma intanto ci consoliamo con la bellissima musica e qualche notizia è curiosa e divertente nello stesso tempo. Infatti non so se conoscete, io non lo conoscevo ancora, e il nuovo gioco Harlem Shake, dove ognuno cerca di replicare il format originale in cui uno inizia a ballare in modo sconclusionato e poi sul ritornello della canzone si scatena, e chiunque, ciascuno con vestiere e passi personalizzati e surreali. Anche i Simpson hanno modificato la classica sigla di apertura sostituendola con una clip in cui Homer e famiglia propongono la propria versione di ballo. Sono circa 4.000 al giorno i filmati in cui qualche gruppo propone la sua interpretazione dell'Arnel Shake, inclusi anche i giocatori della Juventus, del Manchester City e la squadra di basket Dallas, uno squadrone dell'esercito anche norvegese e molti altri. Però questo ha causato notevoli danni, mentre appunto le persone cercavano, quindi gruppetti cercano di divertirsi trovando questo momento un po' di rilassamento e di svago. Però ci sono stati 15 minatori australiani che sono stati licenziati dopo aver postato il video su YouTube, con la direzione che li ha accusati di aver violato le procedure di sicurezza. E non molto meglio è andata invece in Italia a due dipendenti di una radio di Roma che sono stati licenziati dopo che il direttore ha scoperto il video al rientro da un viaggio di lavoro e ha deciso di licenziarli in tronco ai due ideatori appunto della radio, perché lesivo dell'immagine della radio. Però poi sono ritornati in radio, sono stati reintegrati e il direttore della radio si è lamentato del fatto che i media hanno riportato l'accaduto in modo un po' distorto. Ma intanto noi non ci poniamo tanto il problema, perché noi non simuliamo niente, non balliamo. Io, ma semmai, faccio qualche coreografia di qualche canzone appunto che esprime un po' di energia, e vi do energia anche a voi che ci vedete dal sito www.crmhappyradio.it, dove potete non solo vederci ma anche sentirci al contrario. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. My bed. Hey! Oh! Oh! So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Oh! I don't know where I belong. Hey! I don't know where I went wrong. Oh! But I can write a song. Hey! I belong to you. You belong to me, my sweet. Illuminiamo questa mattina del 15 marzo 2013, questo inizio di fine settimana che si prospetta appunto un po' invernale, ma noi troviamo sempre un escamotage per ripararci dal freddo, per trovare delle serate divertenti in compagnia di amici e nel divertimento. Infatti stasera a Carre Longe alle 23 c'è Eclettica, quindi per chi piace la musica rock, per chi piace appunto bere un aperitivo in compagnia di tanta bellissima musica e anche di una compagnia anche di persone che hanno la vostra stessa passione. E adesso Raffo, sei la più bella del mondo. Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, è tutto quanto il mondo. C'è neanche una salita quando ci sei la più bella del mondo. La più bella per me. Ed era tutta la vita che non aspettavo che te. Sei la più bella del mondo. Religione per me. Come sei. Fai quello che senti, manifesti i tuoi sentimenti, mostrandoli con il ritmo del tuo cuore. Se qualche strega una befana c'è lassù con te, non c'è odio sul tuo viso, ma un sorriso, perché sei la più bella del mondo. Vertigine, yeah. Combinazione di cellule, dove uno sbaglio non c'è. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Down that questa era Katy Perry, Part of Me, a CRM Happy Wake Up. E stiamo arrivando alle battute finali, un po' sono 10.56 e tra un po' il nostro programma deve giungere, ahimè, al termine. Anche se ancora il sole non è spuntato, quindi questo mi fa accanire un poco contro il tempo, perché appunto la nostra musica è stata bella, è stata divertente, ma niente, il tempo vuole continuare così ad essere cupo, nuvoloso, è un po' triste, ma noi dai, dobbiamo avere sul morale, anche se spesso, come sto leggendo, come penso che vi capita a molte donne in ascolto, ci svegliamo un po' nervosi. Ora, questa notizia dice che non è un fattore, quindi il fatto di svegliarsi nervosi per noi donne non è perché siamo donne, che capite bene, uomini in ascolto, ma si tratta di una problematica più legata alla fisiologia femminile. Perché appunto l'insonnia sembra avere maggiori conseguenze sul sesso femminile, che va maggiormente incontro a problemi cardiaci, rischi di ictus e depressione. A conferma di quanto detto, è uscito uno studio effettuato da alcuni ricercatori della Duke University del North Carolina, che sono arrivati a una conclusione: le donne hanno più bisogno di dormire degli uomini, per loro una notte difficile si traduce automaticamente in stress mentale e fisico, che provoca ripercussioni sul benessere, tra le quali anche difficoltà di coagulazione del sangue, pensate. La psicologia non è una causa ma effetto, nulla quindi di legato al modo di essere donna, quindi mettetevelo in testa che sì, abbiamo tanti problemi, ci creiamo tanti problemi, ma non è colpa nostra, ecco, è perché la donna ha delle particolari esigenze che l'uomo non ha. Ne abbiamo sempre troppe rispetto agli uomini, sottolineo, però va bene, dobbiamo andare avanti, almeno abbiamo anche altre soddisfazioni che voi uomini non avete. E adesso i gemelli diversi, per farti sorridere, dai, sorridiamo anche se c'è il nuvoloso, con CRM Happy Wake Up. Sono per te. Per farti sorridere, sorridere. Questa vita moderna mi stressa, ho la testa sotto una pressa, poca fresca e gente depressa, vorrei vedere il mare dalla finestra. Una volta ci vedevo due prati e non due cantieri bloccati, rispetto agli anni passati siamo tutti un po' squilibrati, con la nostra vita di corsa, con lo scatto alla risposta, con un altro aumento all'imposta, è una losca cosca che imbosca. Questo mondo è freddo ma rido e mi sento fortunato, perché tutto ha un prezzo ma nulla vale quanto un tuo bacio. Scriverò una canzone solo per te e poi la canterò per farti sorridere e come te. Prenditi tutti i miei giorni se vuoi, meriti il meglio di me. Tieni il volume più alto che puoi, come piace a te, come piace a te. Quasi quando sei giù di morale e io sono lontano a suonare, la mia voce ti possa trovare, ti ricordi che sei speciale, perché quando ti ho accanto il mondo sembra meno bastardo. Vorrei dirtelo ma non parlo e poi mi perdo in fondo al tuo sguardo. Così fragile, così fiero, così semplice, così vero da lasciarmi senza respiro, in fissa con la faccia da scemo. Tu mi guardi con un sorriso e dici che mi manca qualche neurone. Io mi lascio prendere in giro, intanto penso a questa canzone. Scriverò una canzone solo per te e poi la canterò per farti sorridere e cercherò. Come te,